giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Santiago del Cile, 11 settembre 1973. Sono le 9:10 del mattino. Mi rivolgo all'uomo del Cile, all'operaio, al contadino, all'intellettuale, a quelli che saranno perseguitati, perché nel nostro paese il fascismo ha fatto la sua comparsa già da qualche tempo, negli attentati terroristi, facendo saltare i ponti, tagliando le linee ferroviarie, distruggendo gli oleodotti e i gasdotti, il silenzio di coloro che avevano l'obbligo di procedere, erano d'accordo. La storia li giudicherà. Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il metallo tranquillo della mia voce non vi giungerà più. Non importa, continuerete a sentirla. Sarò sempre insieme a voi. Perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Il popolo deve difendersi, ma non sacrificarsi. Il popolo non deve farsi annientare né crivellare, ma non può nemmeno umiliarsi. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro, in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che, più prima che poi, si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero per costruire una società migliore. Viva il Cile! Viva il popolo! Viva i lavoratori! Queste sono le mie ultime parole. E sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che, almeno, sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento. Da Radio Magallanes proviene la voce di Salvador Allende, interrotta dai colpi secchi delle pallottole dei mitragliatori, dal rumore forte delle bombe degli aerei. Le sue saranno le ultime parole da presidente del Cile, il giorno del colpo di Stato del generale Augusto Pinochet. Poco prima il giornalista Hernán Barahona era di turno a Radio Magallanes. La sua testimonianza al microfono di Emiliano Guanella. Io stavo in Radio Magallanes aquel día y yo llegaba muy temprano porque tenía que hacer un comentario politico a las 7:30 de la mañana. In quel periodo stavo lavorando a Radio Magallanes, la radio del Partito Comunista. La mattina dell'11 settembre arrivai molto presto alla radio perché dovevo fare un editoriale da mandare in onda alle 7:30. Mentre stavo leggendo i giornali, il presidente Allende chiamò alla linea speciale che avevamo in radio. Mi spiega che la Marina si era sollevata nella città di Valparaíso e mi chiese se sapevamo qual era il comportamento dell'esercito. Allora gli rispondo che non avevamo informazioni precise a riguardo e gli racconto che venendo alla radio quella mattina avevo visto il Palazzo della Moneda circondato da militari, ma che non sapevo se erano militari leali al governo o militari golpisti. Allende in quel momento stava nella sua residenza. Il presidente allora mi chiese la linea in diretta per rivolgersi al paese e pronunciò così il suo primo discorso. La cadena La Voz de la Patria si chiamava, no? E io, tuo collega e io decidimos salir de la radio. Era peligroso hacerlo perché la ciudad estaba copata militarmente. Dopo il bombardamento sulla Moneda con un collega decidiamo di uscire dalla radio. Era pericoloso perché tutta la città di Santiago in quel momento era occupata militarmente. Abbiamo avuto molta fortuna perché non ci successe niente. Io uscii dalla radio con la cassetta in mano dove avevo registrato l'ultimo discorso di Salvador Allende. La mia unica preoccupazione in quel momento era riuscire a consegnarla ai dirigenti del Partito Comunista. Restai tutta la mattina a casa di un collega della radio, un operatore. Quando i militari decretano il coprifuoco, decido di andarmene da quella casa per non rimanere bloccato per diverse ore. Non volevo che si perdesse del tempo prezioso per conservare questo documento. Uscii in strada e camminai per 20-25 isolati a piedi, senza incontrare nessuna pattuglia dei militari. Anche qui ho avuto molta fortuna. Sono riuscito ad arrivare alla casa dove stava la persona che poteva ricevere quella cassetta. E hasta que logré llegar al lugar donde Io sapevo poteva entregare questa cassetta. I colpi di Stato si compiono in silenzio, ma quello dell'11 settembre 1973 a Santiago del Cile lascia per la prima volta delle tracce. Altre orecchie ascoltano le conversazioni dei generali golpisti. Un radioamatore si sintonizza sulle frequenze utilizzate dall'esercito, dalla difesa, dalla marina e ascolta frasi in codice, vere e proprie ammissioni. Sono ancora le ore della trattativa, poco prima la morte di Salvador Allende. L'ammiraglio Corvallal sta parlando con il generale Augusto Pinochet. Demissione incondizionale, no alla volontà. Demissione incondizionale. Lei conforme. Rendizione incondizionale e se lo toma preso. Ribadiamogli l'offerta di portarlo fuori dal paese, poi magari l'aereo durante il volo cade giù. Sai come funziona, vecchio mio. Vamo a procurare che proteggi il Parlamento. Isabel Allende, figlia del presidente cileno, abbandona la moneda poco prima della morte del padre. Esiliata in Messico insieme alla madre, Hortensia Bussi, dopo il ritorno della democrazia, lei rientra in Cile e diventa una dirigente del Partito Socialista. Io credo che todavía permanecen muchos los desafíos y muy vigente lo que él pensaba. Credo che le idee di mio padre rimangano valide ancora oggi, anche se i tempi sono cambiati. Diceva che bisognava operare cambi profondi per poter costruire una società più giusta. Diceva che si doveva aprire la strada ad una società socialista, però sempre nel rispetto. Fu un precursore dei tempi. Era l'epoca della rivoluzione cubana, con le armi. E lui ripeteva che si doveva seguire la strada della democrazia, del pluralismo e della libertà. I cambi sociali potevano esistere solo nel seno della nostra tradizione democratica, nel rispetto delle nostre istituzioni. Fu estremamente saggio in questo senso. Per mio padre non si poteva sacrificare la libertà in cambio del progresso sociale. Si univa la parola libertà e cambio. Diceva per esempio, perché dobbiamo esportare le nostre materie prime, le nostre ricchezze? Perché queste ricchezze non possono essere usate per lo sviluppo del nostro paese? Per questo lottò tanto, per la nazionalizzazione dell'estrazione del rame. Oggi ci sono in Cile delle grandi compagnie private nel settore del rame, ma continuiamo ad essere un grande, il maggiore esportatore mondiale di rame e nessuno ha potuto intervenire su questo dato. Sono elementi che restano all'esame della storia e che sono validi ancora oggi. Questo non toglie che sarebbe improprio trasportare o copiare meccanicamente le idee degli anni 60, 70, oggi. Algo che fu proprio dello 60 o 70 che non lo possiamo fare nell'anno 2003, evidentemente. Fin qui i ricordi e le testimonianze dell'11 settembre 1973 e le valutazioni storiche sul ruolo di Salvador Allende. Ma sulla morte del presidente cileno non tutto è stato chiarito. L'11 settembre 1973 è il giorno dell'annuncio del plebiscito sulla politica economica e sociale di Allende e di Unidad Popular. Augusto Pinochet, ministro degli interni nominato da Allende e comandante supremo dell'esercito, ne è a conoscenza. Il presidente Allende è convinto della fedeltà di Pinochet e del generale Leite, comandante della forza aerea, del generale Mendoza, dei Carabineros. Allende è dunque sicuro che la ribellione di Valparaíso, dalla marina militare guidata dall'ammiraglio Merino, sarà presto stroncata. Ma così non avviene. Alle 13:20 tutti si arrendono su indicazione di Allende. I pochi rimasti al Palazzo della Moneda ormai bombardata e indifendibile da persone pressoché inermi. Familiari e stretti collaboratori del presidente escono a mani alzate dal palazzo attraverso la porta Morandé 80. Allende resta indietro, è l'ultimo della fila. Indossa un elmetto e imbraccia il fucile AK-47 che gli aveva regalato Fidel Castro. Allende non si arrende, sente urlare un medico amico del presidente. Si volta al suono della voce di Allende e lo vede morire. Suicidio o omicidio? Il mistero ad oggi resta ancora intatto, così le versioni contrapposte di chi sta dalla parte di Allende e chi ne è ancora oggi nemico.